later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli, che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, la fabbrica di polli, il presente è una mezzanotte senza fine. Kappa e Drago ripensano al passato. Vabbè, non c'era internet, però le tesi di laurea a Drago si facevano lo stesso. Meno male. Le ricerche non erano su Google, ma erano in biblioteca, ma insomma, sempre ricerche erano. E poi il testo si scriveva a macchina, mica sul computer. Lo so, Kappa, solo che non capisco. Tu hai scritto la tua tesi a macchina ancora? No, io non ho mai scritto la mia tesi. Ma allora di che cosa stai parlando? Del fatto che i giovani non si arrangiano più con la loro testa, è chiaro? Cercano tutto su Google, questo è il problema. Sì, sì, e il brutto è che poi trovano tutto su Google. Vabbè, è una bella cosa, no? Cerchi, trovi. Va bene, ma l'abilità allora dove sta? Scusa, cerchi, trovi. Sta nel cercare le pagine giuste tra i milioni di pagine che Google trova su un dato argomento. Vabbè, ma cosa vuol dire? Cerca, trova, copia, incolla, Drago. Che bella abilità. Eh beh, ma se vuoi lavorare bene, poi devi anche cercare i riscontri a quello che trovi sulla rete. Sì, che basta se... copia e incolla. Certo che no, vai su un sito qualunque, tu trovi delle informazioni e le metti dritte sulla tua tesi di laurea. Ma... No. Devi andare sui siti istituzionali che danno le notizie ufficiali. Siti del ministero, per esatto, esempio. Solo che chi ci va su quei siti? Non so, ci sono sempre i lavori in corso lì. Allora. Perché fanno un appalto per vedere chi farà il sito del ministero, no? Qualcuno vince l'appalto, prende l'anticipo e poi aspetta che il dipendente sessantenne del ministero dia loro i contenuti. Così il sito resta sempre in progress, perché figurati, il dipendente sessantenne gli dà i contenuti. Allora il ministero non paga le rate successive, tutto va a catafascio e il sito rimane così. Ti sembra uno che ti aggiorna il sito? Cioè io ti sembro uno che ti aggiorna il sito senza che prima gli paghi la rata? Ti sembro uno che sa come si aggiorna un sito? Io il più bello, più elegante, il più sinuoso essere volante, io il più bianco, lucente intrigante, il più perfetto con l'assetto di un alien. Ridotto così come cadavere spiaggiato, così come animale contagioso ammalato, ero un sogno, ero il cigno più bello del mondo, sogno infranto. E questo stanotte il mio canto, e questo stanotte il mio canto. La fabbrica di polli. Senti un po', Tare, ma tu ti sei mai fermato un attimo a pensare alla tua vita? Ma forse è meglio così, che se ci pensassi ci maresti troppo male. Il tuo problema è che sei nato in mezzo alla bambagia. La bambagia? Tu sei di una generazione cresciuta a pane e televisione. Quando tu eri alle medie, c'erano già 7 canali nazionali che trasmettevano anche la notte. Quando ero alle medie io invece, c'erano 2 canali in bianco e nero. Le trasmissioni finivano dopo mezzanotte, con le ragnatele, Le ragnatele? Eh sì, le ragnatele. Ma tu lo sai cos'erano le ragnatele? Le ragnatele? Era la sigla finale dei programmi della RAI. Si vedevano delle ragnatele, che forse poi erano antenne, adesso non mi ricordo bene. Comunque sembravano ragnatele. E c'era una musichetta con la tromba, triste, che poi voleva dire tutti a nanna. Nanna! Al mattino poi non c'erano i talk show con i conduttori riciclati come adesso, eh? Al mattino c'erano le prove tecniche di trasmissione. Sai cos'erano? Ecco, nessuno l'ha mai saputo, neanche io. Credo che fossero proprio prove tecniche di trasmissione. Allora c'erano le ferme immagini di scene casalinghe, no? Mi sembra di ricordare. Tipo una donna che annaffia un vaso di fiore in un appartamento svedese, no? Ikea! Eh sì, Ikea. Insomma, un fermo immagine così per 3 minuti, con la colonna sonora della casalata. Poi un'altra immagine, la stessa donna che accarezza un gatto. 3 minuti così. E poi ogni tanto c'era la voce fuori campo che ripeteva: prove tecniche di trasmissione. Ma sai che ce la faceva un programma così? La fa saltare l'audite, eh? Ecco. E secondo te, quelli della mia età, da giovani, guardavano la TV? E certo che non la guardavamo, non c'era niente, eh? Anche voi non l'avreste guardata se non avessero deciso a un certo punto di far crescere un'intera generazione rimbambita dai cartoni animati giapponesi. Gundam! Ma lo vedi? Tu sei proprio di quelli lì, eh? Quelli che invece della nonna hanno avuto la TV. Ma vada via QT e Mazinga Z. Mazinga Z! In the middle of nowhere. Drago, ma dove sei? Drago, oh, ma dove sei? Sto sognando di parlare con te. E a quanto pare ci stai riuscendo. Far cosa? A parlare dal sogno con me, che non sono nel sogno. No, con ma te. Sì che sei nel sogno. Perché ti ostini a dire che non sei nel sogno? Sei nel sogno dove è sempre mezzanotte. Ma non è un sogno, è la realtà, purtroppo. Vabbè, e allora io dove sono? Non lo so, sento la voce ma non ti vedo. Rassegnati, Drago. Quella che tu credevi, la tua realtà, è un sogno, un mio sogno. Non fare il megalomane adesso. I sogni durano 2 minuti. Io sono in questa fabbrica da mesi e mesi. Vabbè, ma se la relatività, Drago. Quale relatività? Quel che per te vale mesi, per il sogno sono solo pochi minuti. Vabbè, dai, mi sembra una risciacquatura di romanzi di fantascienza, di trattati teologici. Non è credibile. Cappa, riprovaci, ovunque tu sia a farmi questo scherzo, nascosto con un microfono e una cuffia, non ci stai riuscendo. Non c'è niente di peggio degli scettici ottusi come te, Drago. Sei scettico ma senza basi, capito? Non hai le basi. Non ho le basi ma sono scettico. Sono un illuminista di stampo francese, sì. Io non mi faccio incantare dalle stregonerie. Ah oui, ah bon, tu es un illuministe, ah bon oui. Ah già, il tuo mais sogno... bien sûr. Ma tu sei a Parigi adesso. Bien sûr, je suis à Paris. Allora muoviti, cosa stai a perdere tempo con me? Vai, ho il colpo della strega, Drago, muoviti. Le tour de Rennes. Come si direbbe in francese? Colpo della strega. Oui, le tour de Rennes. Cioè, tu sogni di essere a Parigi e di avere il colpo della strega. Beh, cosa c'è di strano? Scusa, c'è chi sogna di morire, io sogno solo di avere il colpo della strega. Ma che sogni fai? I sogni che mi merito, Drago. Ecco. Aia, non farmi agitare, sennò mi fa male. C'est le tour de Rennes, hein? Ah bon, tu pas... Che cosa succederà adesso? Il sogno del colpo della strega costringerà K a stabilirsi definitivamente a Parigi? E a Parigi ci sono fisioterapisti affidabili? Mais bien sûr! Non dovete far altro che tornare puntuali domani a mezzanotte su Radio 3 per il prossimo discopatico allestimento de... La fabbrica di polli produce, non chiude. La Fabbrica di Polli, un programma di Kappa e Drago prodotto dall'Istituto Barlumen. La Fabbrica di Polli è trai.it, barlumen.com. Ma io non ne so niente, eh? Sì, ma se me lo dicevi prima, scusa, cosa c'entro io? Io te l'ho detto, se me lo dicevi prima... No, io non ti ho mai promesso niente. Non è che da me ti puoi aspettare più di tanto, no? Sai che io non voglio mai avere grane, no? Se no poi vado in sbattimento e poi infarto. No, voce del verbo infartare. Ma che ne so io? Io non c'entro niente, io sono fuori, eh? Chiaro? No, tu dovevi dirmelo prima. Tu me l'hai detto? No, e allora niente.